Capitolo 49. Poi Giacobbe chiamò i suoi figli e disse: «Radunatevi, e vi annunzierò ciò che vi avverrà nei giorni a venire. Radunatevi e ascoltate, o figli di Giacobbe. Date ascolto a Israele vostro padre. Ruben, tu sei il mio primogenito, la mia forza, la primizia del mio vigore, eminente in dignità ed eminente in forza, impetuoso come l'acqua. Tu non avrai la preminenza, perché sei salito sul letto di tuo padre e hai profanato il mio letto su cui ero salito. Simeone e Levi sono fratelli. Le loro spade sono strumenti di violenza. Non entri l'anima mia nel loro consiglio segreto, non si unisca la mia gloria al loro convegno, perché nella loro ira hanno ucciso degli uomini e nella loro malvagità hanno tagliato i garretti ai tori. Maledetta la loro ira, perché è stata violenta, e il loro furore perché è stato crudele. Io li dividerò in Giacobbe e li disperderò in Israele. Giuda, te loderanno i tuoi fratelli. La tua mano sarà sul collo dei tuoi nemici. I figli di tuo padre si inchineranno davanti a te. Giuda è un giovane leone. Tu risali dalla preda, figlio mio. Egli si china, s'accovaccia come un leone, come una leonessa. Chi lo farà alzare? Lo scettro non sarà rimosso da Giuda, né sarà allontanato il bastone del comando dai suoi piedi finché venga colui al quale esso appartiene e a cui ubbidiranno i popoli. Egli lega il suo asinello alla vite e il puledro della sua asina alla vite migliore. Lava la sua veste col vino e il suo mantello col sangue dell'uva. Egli ha gli occhi rossi dal vino e i denti bianchi dal latte. Zabulon abiterà sulla costa dei mari. Sarà sulla costa dove approdano le navi. Il suo fianco s'appoggerà a Sidone. Issacar è un asino robusto sdraiato fra due ovili. Egli ha visto che il riposo è buono e che il paese è ameno. Ha curvato la spalla per portare il peso ed è stato costretto ai lavori forzati. Dan giudicherà il suo popolo come ogni altra tribù di Israele. Dan sarà una serpe sulla strada, una vipera cornuta sul sentiero, che morde i garretti del cavallo e fa cadere il cavaliere all'indietro. Io aspetto la tua salvezza, o Signore. Gad sarà assalito da bande armate, ma egli a sua volta le assalirà e le inseguirà. Da Asher verrà il pane saporito ed egli fornirà delizi e regali. Neftali è una cerva messa in libertà. Egli dice delle belle parole. Giuseppe è un albero fruttifero vicino a una sorgente. I suoi rami si stendono sopra il muro. Gli arcieri lo hanno provocato, gli hanno lanciato frecce, lo hanno perseguitato, ma il suo arco è rimasto saldo. Le sue braccia e le sue mani sono state rinforzate dalle mani del potente di Giacobbe, da colui che è il pastore e la roccia di Israele, dal Dio di tuo padre che ti aiuterà e dall'Altissimo che ti benedirà con benedizioni del cielo di sopra, con benedizioni dell'abisso che giace di sotto, con benedizioni delle mammelle e del grembo materno. Le benedizioni di tuo padre sorpassano le benedizioni dei miei progenitori fino a raggiungere la cima delle colline eterne. Esse saranno sul capo di Giuseppe, sulla fronte del principe dei suoi fratelli. Beniamino è un lupo rapace. La mattina divora la preda e la sera spartisce le spoglie. Tutti costoro sono gli antenati delle 12 tribù di Israele. Questo è ciò che il loro padre disse loro quando li benedisse. Li benedisse dando a ciascuno la sua benedizione particolare, poi diede loro i suoi ordini e disse: «Io sto per essere riunito al mio popolo. Seppellitemi con i miei padri nella grotta che è nel campo di Efron l'Ittita, nella grotta che è nel campo di Macpela di fronte a Mamre, nel paese di Canaan, la quale Abramo comprò con il campo da Efron l'Ittita come sepolcro di sua proprietà. Qui furono sepolti Abramo e sua moglie Sara. Furono sepolti Isacco e Rebecca sua moglie, e qui io seppellii Lea. Il campo e la grotta che vi si trova furono comprati presso i figli di Chet». Quando Giacobbe ebbe finito di dare questi ordini ai suoi figli, ritirò i piedi nel letto, spirò e fu riunito al suo popolo.